Rieccoci di nuovo qua, mio caloroso pubblico. Per chi non mi conosce, io sono il bellissimo Giovanni Martorana, in arte Usaracino. Ovunque, dovunque e comunque, ho il piacere di presentare per la prima volta allo show della Terronia un artista palermitano. Accogliamolo con un caloroso applauso. Vito Fiorino, in arte Five. Salve signore e signori, mi presento, mi chiamo Five e da Palermo vengo. Oggi non sono qui per dimostrare il mio talento, ma oggi sono qui per dimostrare a cosa appartengo. Difficilmente mi vedi con giacca e pantaloni, ma questa volta ho fatto un'eccezione. Sarò brutto dentro e bello fuori, eccezionale. Io sorrido sempre mentre voi state presi a male, e tu che stai seduto su quella poltrona, lontano dai palchi, lontano dalla mia zona. E tu che fai il figo e vieni dalla Polentonia. Beh, io faccio figo perché sogno e non terrona. Tenere una bastonata e sto siciliano, ma stiamo calmi che se non rimasti un suo macosaro, che già avevamo a cuffaro. E ora che mi inchiate riprocetta, la ricreiamo. E chi ne sa, ti avvicini, si faccia sentire, venga un po' più in qua. Si avvicini, dai voce al tuo problema in questa città. Si avvicini, si avvicini, venga più vicino. Ascolti e ridi, questo non è mica uno sketch. Io sogno capi, spiegare di cose combini. Non è mica cabaret, che poi se sei italiano poi ogni cosa ti lamenti. Puro di che manifesta, ma sei stata a casa resti. Teste di cazzo e bei coroni, scusate il linguaggio, ma quando ci vuole ci vuole. State calmi, ora che sapete la crisi. Volete non spiegarevi, guardatemi, ascoltatemi. Di pubblico è rimasto solo il debito, ma io voglio pubblico sveglio. Anche senza un accredito non voglio nessun merito, solo che dai voce al tuo problema. Per questo popolo decrepito, per cambiare questo sistema serve anche il tuo aiuto. La mia non è follia estrema, è solo che non cambia nulla se anche tu rimani muto. E chi ne sa, si avvicini, si faccia sentire, venga un po' più in qua. Si avvicini, dai voce al tuo problema in questa città. Si avvicini, si avvicini, venga più vicino, più in qua. Mi dica per lei cosa non va. Oh, e che minchia, minchia, non vi sento proprio, siete freddi, lontani, avvicinatevi, che vi devo raccontare una cosa che scotta. C'è un vecchio detto terronico che dice, testa comparre e cucuzza. E io vi dico che se non volete rimanere cucuzza comparra, dovete ascoltare uno che prima era una cucuzza comparrava e adesso è una delle voci del problema. Lo spettacolo continua. Welcome to the Terronia Show!